259 soufflé di pollo. Questo piatto, nutriente, leggero e poco eccitante, può venire opportuno se dopo un pranzo restano degli avanzi di pollo arrosto, petti ed anche, specialmente poi se nella famiglia si trovasse qualche persona vecchia o di stomaco delicato e debole. Polpa di pollo priva della pelle, grammi 80, farina grammi 50, burro grammi 30, parmigiano grattato grammi 20, latte decilitri 2,5, uova numero 4, sale una presa. Fate una balsamella col burro, la farina e il latte. Dopo cotta e non più a bollore, uniteci il parmigiano, il sale e i rossi d'uovo. E il pollo tritato fine con la lunetta. Poi montate ben sode le chiare, aggiungete in bel modo al composto anche queste, per versarlo in un vassoio che regga il fuoco. Rosolatelo leggermente al forno da campagna e servitelo caldo, benché sia buono anche ghiaccio.